tutelari. I numi tutelari, che sono Schulz con i Peanuts, Calvin e Hobbes di Bill Watterson e Donsbury di Gary Trudeau. Ok. Ognuno a modo suo, ognuno in modo diverso, però tre cardini proprio fondamentali. È divertente che Schulz e Bill Watterson già ritornano vagamente, li abbiamo citati con insomma Cal e Laura Stroppi la scorsa settimana, li abbiamo citati con Sergio. Schulz è fondamentale perché tenendo conto che è iniziato nel 1950, quindi un periodo particolare anche del fumetto, lui è proprio il Vecchio Testamento, no? L'avevo definito una volta, cioè è imprescindibile perché ha reinventato il linguaggio, ma ha reinventato anche proprio la striscia fumetti, cioè lui ha dato uno spessore psicologico ai personaggi che non si era mai visto sino ad allora, e ha anche creato una striscia con più protagonisti, nel senso che alla fine i protagonisti in Peanuts sono almeno 20, cioè ognuno con un carattere talmente forte, talmente autonomo, talmente individuale che sono tutti veramente protagonisti. Se dovessi dire una caratteristica che ti colpisce, che ti sorprende ancora leggendo le strisce dei Peanuts? Aspetta, domanda più semplice. Il personaggio preferito, che forse il personaggio preferito nei Peanuts in cui si riconosce qualcuno, forse dice anche qualcosa di sé. Charlie Brown naturalmente, Piper i Tappatti tantissimo. Okay. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Anche non chiamarmi capo. Esatto. Piper i Tappatti è questo personaggio, questa ragazzina... Una hippie ante litteram, nel senso che già quando lei... adesso non ricordo l'anno esatto in cui fece eruzione nella striscia, però... era veramente una hippie antelita, una figlia dei fiori che precorreva i tempi. Personaggio sempre positivo, sempre mi piace tantissimo. È un personaggio un pochino meno noto, è più di seconda fila. Allora, io mi annovero tra i per noi fanatici malati dei Peanuts, non esistono personaggi non noti. Io quando Panini ha iniziato a fare l'integrale dei Peanuts, quindi rifacendosi a quella della Fantagraphics americana, ho iniziato a prenderli tutti, ovviamente. Quindi sto leggendo, ripercorrendo 50 anni di strisce. E devo dire che alla fine sono veramente tutti protagonisti. Ho citato anche Sally, che mi piace tantissimo, la sorella di Charlie Brown, che è un cinismo divertentissimo. Sì. Ma secondo te il mondo degli adulti visto dai bambini o il mondo dei bambini visto dagli adulti? No, è il mondo degli adulti visto dagli adulti alla fine. Secondo me i bambini... sono presi di striscio, sono veramente adulti, c'è veramente una profondità psicologica, filosofica, morale, religiosa anche. Ci sono anche tantissimi libri, tantissimi saggi sul concetto di religione nei Peanuts, cioè ha aperto tanti campi anche filosofici. Ma in linea di massima si potrebbe dire, perché questa è un po' una banalizzazione, che il pensiero dei bambini sia semplificato rispetto a quello degli adulti, quindi forse è riuscito a entrare nella mente dei bambini ricordandosi bene, perché tutti noi ci ricordiamo di quando eravamo bambini ma forse escludiamo alcune parti. Forse Schulz riusciva a ricordarsi bene quello che era e lo ha trasposto, perché poi un conto è ricordarsi qualcosa, un conto è riportarlo in forma narrativa. Certo, assolutamente. Forse ecco, più che sui pensieri e i concetti, è forse sui sentimenti, che forse è più sui bambini, effettivamente. D'altronde, noi siamo quello che eravamo, cioè diventiamo da adulti quello che abbiamo vissuto da bambini, no? Quindi, diciamo, vari sentimenti, amore, emarginazione, amicizia... fa di noi poi quello che siamo da adulti, e lì questo sì, perché le dinamiche lì sono effettivamente abbastanza da bambini. Ma perché poi da bambino sperimenti senza filtro tutto quanto. Certo. E il fatto che quello che sperimenti da bambino, andiamo a finire nella psicologia e poi dobbiamo parlare di scemate, perché sennò qui... Poi passiamo ad Alvaro Vitali. Esatto. Facciamo così. Alvaro Vitali non ci interessa, però invece il côté anarchico di Snoopy, invece come l'hai visto? Cioè... sono la vita di questi bambini e poi questo bracchetto, questo cane, questo bracchetto che diventa il barone rosso, diventa uno scrittore. Beh, lì un po' è stata, almeno da quello che ho dedotto leggendo due o tre biografie di Schulz, è stata un po' anche l'ancora di salvezza, perché dopo 20 anni di strisce, magari quindi si parla di arriviamo intorno già alle migliaia e migliaia di strisce. Aspetta. Trovare qualcosa che ti permetta delle digressioni anche surrealistiche, esatto, ti facilita le cose. Ecco, non le digressioni, forse quelle di Snoopy, per staccare un momento. Staccare, perché poter mettere elementi quasi onirici, cioè surreali, ti semplifica la vita, perché devi stare sempre surrealistico. 50 anni di strisce diventano un'impresa ardua. No, ma la cosa pazzesca è poi come questi due mondi convivano, perché alla fine Snoopy continua a comportarsi come un essere umano anche quando ha a che fare con la zuppa, con la pappa, certo, che gli porta Charlie Brown. Sì. Non sono così lontani, anzi ogni tanto poi quando interagisce il mondo reale di Charlie Brown e quello surreale di Snoopy sono le gag più stranianti. Sì. Ma c'è il rapporto, a parte che ci sarebbe anche da scrivere parecchio sul rapporto tra Charlie Brown e il suo cane, cioè sì, Snoopy, che è divertentissimo, perché non è un rapporto bionivoco, perché Snoopy sa a malapena chi sia suo padrone. Non... Esatto, il bambino della testa tonda. Esatto, mentre Charlie Brown è affezionatissimo al suo cane. Queste sono altre domande che uno si fa, addirittura gli animali, come ci percepiscono. Certo. Quanto c'è dentro un fumetto, una striscia? Vabbè, stiamo parlando della grammatica dell'Antico, certo, Testamento, per il fumetto in generale, per le strisce a maggior ragione, però quanto c'è lì dentro, siamo vicini a tanta letteratura, tanti, certo, classici, certo, assolutamente, ma a tutti gli effetti, poi per chi vuole crederlo o no, io reputo veramente alcune di queste strisce dei classici della letteratura, cioè andrei oltre il fumetto. È così, assolutamente. Se poi accenneremo magari a Donsbury, così, il parallelo che io vedo tra la Comédie Humaine e Donsbury è strepitoso. Cioè, anche, certo, lì siamo oramai sui 50 anni di storia americana, o più in generale sui 50 anni di storia occidentale, filtrata attraverso dei protagonisti di una striscia fumetti. Donsbury è meno conosciuto perché penso che non sia mai uscito più di tanto dalle pagine di Linus, è qualcosa di molto legato a Linus. C'è stato un integrale di Black Velvet dei primi 2 anni, che doveva, okay, proseguire, ma... È una striscia, tanto per contestualizzare, che esce ancora sulle pagine di Linus, sì, e tra l'altro Linus ne sta ripubblicando anche le vecchie strisce. Sì, perché l'autore in anno sabbatico. Okay. Ma credo che stia scrivendo una serie TV, perché in realtà la quantità, sì, di politica, sì, americana, sì, di amministrazione che c'è dentro Doonesbury è impressionante. Sì. È proprio la storia, anche, è proprio la storia. Perché poi teniamo conto che in questa striscia è passata la guerra in Vietnam, la guerra in Iraq, in Afghanistan, la più recente ancora contro Saddam. Cioè è passata veramente la storia, e poi anche la politica, il Watergate, c'è di tutto veramente. Ok. E letteratura. Esatto, letteratura. Alla fine ha una complessità maggiore. Doonesbury, senza una guida di lettura un pochino più difficile, o quantomeno senza un minimo di comprensione della politica estera e interna degli Stati Uniti, può essere più difficile. Come avevo letto in un'intervista a Trudeau, lo stesso autore ha bisogno di una guida ogni tanto per districarsi in ciò, okay, che ha creato in 50 anni. Ok, cioè, certo. Quasi, cioè, adesso 50 anni è esagerato, perché in effetti mi sembra la striscia è nata nel 70, quindi siamo a 45. Sì. Però insomma ci avviciniamo rapidamente. Quello che cambia, ciò... i cambiamenti del mondo in quest'epoca e quanto sono dal punto di vista preferenziale degli Stati Uniti, penso che ci sia tanta storia dell'Occidente alla fine. Sì, perché poi come dicevamo anche prima chiacchierando amabilmente, io tengo una panchina... Sì, eravamo qua fuori, questa è stata una scena buffa, io e Stefano eravamo qua fuori, sono andate via un gruppo di studentesse, ci siamo seduti noi... E via. Così, due barbuti, esatto, fumatore lui, io non fumo neanche, non ho neanche vizi, no, capitan brutte cose, nei dintorni della biblioteca Archimede, loschi figuri... No, come dicevamo, spesso ciò che accade, non è, anche qui non c'è un rapporto bionivoco, cioè ciò che accade negli Stati Uniti è comprensibilissimo, che ne so, da noi, esatto, in Italia, ciò che accade in Italia non potrebbe fregare di meno agli Stati Uniti, per cui questo... attraverso la storia degli Stati Uniti noi riviviamo la nostra storia, esatto, e non viceversa. Esatto. E visto che oggi hai fatto la playlist, assolutamente, era stata una richiesta, mi sembra una cosa molto bella anche poter dare agli autori ospiti la possibilità di fare le scelte musicali. Grazie a Patrizia Comino. Esatto, lei che ha lanciato per prima una canzone, prima ero solo io che facevo, facevo la playlist ma attingevo ai miei gusti musicali, invece così variamo molto di più, quindi facciamo un'opera di divulgazione anche musicale. Quindi Stefano, hai voglia di lanciare la prima canzone? Sì, la prima canzone è la canzone per me. Okay. Teniamo conto che io sono molto impostato sugli anni 80, quindi per chi ama gli anni 70 ciò verrà visto come una bestemmia, comunque per me è la mia canzone. dei Tears for Fears, si intitola Everybody Wants to Rule the World. E siamo tornati in onda dopo un pezzo da quell'epoca strana. Quindi non ricordi, 80. Non ricordi il video in cui la Triumph verde decapottabile guidata da Roland Orzabal e Tears for Fears percorreva l'autostrada californiana? Allora, no? Dimmi l'anno esatto. 1985. Ecco, avevo un anno e mezzo, due anni. Ma è, quindi è stato ritrasmesso. Potrebbe stare nella memoria ancestrale, però... Mannaggia. Vabbè, dai, ti perdono. Vabbè, Stefano Frassetto è responsabile della playlist di oggi, quindi se i gusti, suoi gusti non sono di vostro gradimento, prendetevela con lui, solitamente prendetevela con me, anzi prendetevela con me per tutto, perché... Io so già di qualche amico collega disegnatore che mi manderà degli insulti via SMS. Ah, ok. Non Patrizia citata prima, che so che lei apprezza invece molto la musica anni 80. Forse ci sta ascoltando, Patrizia Comunino, salutiamo, che è l'autrice del meraviglioso logo di Sono solo nuvolette, il cervello che è anche un balloon. Ma altri autori tipo Roberto Totaro, tanto di Nirvana, fanatico degli Zeppelin, quindi capirai questo genere di musica come può appassionarlo, o come Sauro Ciantini, anche lui grandissimo disegnatore. Ok, tu sei oggi al comando, l'uomo al comando della playlist. Esatto, quindi... mi sono chiuso dentro lo studio, nessuno può fare irruzione. Esatto. Quindi comunque la playlist oggi è a cura di Stefano Frassetto. E parlavamo anche delle tue influenze. Tu sei autore di fumetti, fumettista. Ti piace, abbiamo appurato che ti piace la definizione di fumettista. Sì. E la striscia è un sottogenere del fumetto che va molto di sintesi. Moltissimo. Quanto è difficile realizzare una striscia a fumetti? Rispetto a magari una tavola, tra una tavola e una striscia, a parità di magari quantità di disegni o tempo che serve per disegnarle, oppure meno perché la striscia è più sintetica, quanto lavoro serve di sottrazione? Bella domanda, è vero, perché la striscia veramente è la sublimazione della sintesi, cioè ho anche solo una preposizione in meno che riesci a mettere, hai veramente guadagnato tantissimo, cioè... c'è chi sostiene che la striscia perfetta è muta praticamente, però vabbè, adesso a parte questo, questa è una gag chiaramente, bravo, però c'è esatto, quella stranezza, esatto, però si una va sicuramente... gag per parlare di strisce una gag per parlare di strisce che dice muta. Sì, okay. È vagamente delirante, però credo che d'accordo, sia abbastanza simbolico di questo mondo. Si va molto per sottrazione, molto per sintesi. Meno si riesce a scrivere, meglio è, perché comunque la striscia vive di velocità, no? Teniamo conto del supporto nella quale è pubblicata, no? Storicamente, che è il giornale quotidiano, quindi non deve richiedere grandi tempi per la lettura. A maggior ragione oggi che diciamo, il supporto è sostituito dal quotidiano, di carta stampata è passato molto a internet, internet forse ancora peggio, cioè, la lettura su internet forse è ancora più rapida che quella su un giornale. Ed è questo uno dei motivi per cui la striscia è un po' rifiorita con internet, sono emersi tutta una generazione di nuovi autori che lavora di striscia principalmente. Sì, sono striscia, alcuni impostati anche sul verticale, no? Perché non necessariamente l'orizzontale che funzionava per il quotidiano col suo bel paginone, su un monitor di internet, su un monitor di computer, e quindi andando su internet non è forse, cioè si può tranquillamente andare sul verticale. Ma sì, perché a quel punto lì, se la fruizione è diversa, se il supporto su cui viene realizzato è diverso, niente vita di sperimentare in altre direzioni, e il monitor tende a uno scorrimento verticale, quindi a quel punto perché non fare uno scorrimento verticale? Infatti, detto ciò, io per esempio preferisco sempre leggerla in orizzontale, cioè okay, anche perché delle volte, appunto, guardando i grandi classici della striscia, proprio la composizione della striscia è bella averla tutta sott'occhio, no? Se si torna proprio agli albori, a Crazy Cat o a strisce molto artistiche, l'idea di vederla in scorrimento verticale, sì, insomma. Beh, c'è un'altra operazione che a volte fanno adesso. Ho colmato proprio ieri una mia lacuna sul fumetto acquistando, si può fare pubblicità visto che parliamo di storia del fumetto, l'edizione di 13 di Van Damme nell'edizione Mondadori Comics, sì, che era già uscito però in formato Bonelli, e quindi penso l'abbiano rimontato. A volte, tante volte esiste questa cosa per cui il fumetto viene rimontato forse, sì, a seconda del formato, non sempre. Allora, ti dirò un altro strumento di formazione per la mia generazione sono stati gli Oscar Mondadori e gli autori di Strisce, quindi sì, tra cui anche Peanuts, ma anche Beetle Bailey, Agar di Dick Brown, vediamo chi mi viene ancora in mente, Ian Lois, sempre di Dick Brown. E direi anche che... Johnny Hart uscito. Bravo, anche no, Wizard of Feed, benissimo, ecco, BC. Erano comunque strisce rimontate su formato tascabile, quindi erano le singole vignette venivano smontate, rimontate per farle stare su una pagina, che rendeva ovviamente possibile pubblicarlo su tascabile. Perdendo però, se appunto, se adesso uno ha per le mani o l'integrale di Calvin Hobbes o l'integrale dei Peanuts pubblicata in formato orizzontale, vede qual è la differenza. Sì, sì. Anche è qualcosa vicino, sì, comunque il meccanismo della lettura, il voler abbracciare con tutto il campo visivo, certo, l'intera striscia, certo, è certo, qualcosa di diverso, certo, con, sicuramente se uno le valuta da un punto di vista artistico, poterle vedere tutte contemporaneamente più cioè, intendiamoci, si potevano vedere anche contemporaneamente sulla pagina del tascabile, sì, però era un tipo di lettura diverso. Adesso sì, è difficile da spiegare a parole, no? È una cosa molto visiva, però il senso era quello. Di per sé è semplicemente il fumetto è fatto di singole unità, che sono le vignette, però il fumetto esiste se tu metti due vignette una accanto all'altra, se no è un'illustrazione. È sequenziale, per cui uno il ritmo di lettura della sequenza un pochino fa, secondo me. Ecco. Adesso in realtà affondo in qualcosa di talmente remoto del tempo che potrei dire mantengo il condizionale, come si usa molto bene giornalisticamente, perché potrei, non ne sono certo al 100%, ma credo che anche Tex all'inizio fosse in strisce, e poi il formato Bonelide che conosciamo. Tu sai che stai mettendo i piedi su un campo minato, è vero? Perché Tex è un argomento religioso, per cui io non ho grandi competenze, ma gli appassionati che esistono, di Tex sono molto diffusi sui mercatini queste prime versioni di Tex orizzontali. Sì, c'era gli albi di Tex a strisce. E in teoria il formato Bonelide, il formato del fumetto Bonelli, chiamato Bonellide da chi lavora nell'ambiente, nasce da tre strisce una sopra l'altra, quindi in realtà anche la tavola, anche il formato che noi conosciamo come tavola, cioè una pagina di fumetto, nasce da tre strisce incolonnate. Ma ti dirò, il discorso di impaginazione è interessante, perché per le strisce, per quello che riguarda le strisce, ti faccio un esempio veloce. Quando la striscia che faccio tuttora per il giornalino dell'edizione di San Paolo, che si chiama Hippo, e va sul giornalino, che è un formato classico da rivista per ragazzi, no? Quindi tanto anche qui per contestualizzare, il giornalino, ne parlavamo prima, è probabilmente l'ultima rivista per bambini di fumetti rimasta. Bambini ragazzi, bambini barra ragazzi. L'Italia ha avuto una tradizione grandissima. Sì, Corriere dei molti, piccoli, Corriere dei ragazzi. Molti di noi hanno imparato a leggere su quelle pagine, anch'io. Io. Forse io sono stato l'ultima generazione a leggere il Corriere dei piccoli. Ma c'è questa tradizione fortissima che poi è andata a perdersi. No, pardon, stiamo dimenticando Topolino. Sì, che è ancora una rivista. Sì, io adesso per il discorso di impaginazione mi riferivo appunto a formato grande, okay, no? Quindi io cerco solo di evitare che diventi una cosa per iniziati. Certo. Ti riporto, continua pure, tu stai parlando del formato del giornalino. Sì, Corriere dei piccoli, Corriere dei ragazzi. Quando la mia striscia venne presa al giornalino, quindi si parla di 10 anni fa, grazie all'interesse di Roberto Rinaldi, che è tuttora il curatore dei fumetti e nonché grandissimo disegnatore Bonelli, c'era il problema di impaginare questa striscia, che è una striscia singola, già in un settimanale non è che l'idea sia geniale, e quindi si decise di mettere 4 strisce in colonna, ognuna autoconclusiva, quindi incolonnate in modo da riempire tutta la pagina, che però avessero lo stesso, narrassero lo stesso episodio, no? Quindi ogni striscia autoconclusiva. In fondo, anche le strisce nei quotidiani dei Peanuts, delle volte si parlava dello stesso episodio andando avanti per strisce, strisce, strisce. Esatto. No? E l'eccezionalità dei Peanuts, di molti fumetti, di molte strisce del genere, è che tu riesci a mantenere un'unità narrativa, che la gag funziona all'interno della striscia, e poi la stessa situazione Bravissimo. Prosegue. E poi prosegue. E questo sono quelle punti di forza, quella tecnica che tiene in piedi la striscia, che sono quegli ingranaggi piccolissimi che però sono nascosti, certo, però fanno nascondono un mondo intero. Sì, sì, è il parallelo di cui accennavamo anche prima privatamente con le sitcom, è abbastanza eclatante qua. Okay. Le sitcom hanno il loro ritmo di risata, ogni 10 secondi, quanto è? Esatto. Dopo la canzone parliamo del parallelismo tra strisce umoristiche e sitcom. Adesso però ti spetta presentare la seconda canzone? Sì, allora, un pegno per non mettere tutta roba anni 80, per non fare una delle mie canzoni del passato, perché gli anni 80 sono ancora presente, del passato è Mama Cass con Making On Kind of Music. E questa è la seconda parte della puntata di oggi di Solo Nuvolette, in cui Stefano Frassetto è contemporaneamente ospite e DJ perché ha fatto la playlist. Mimo. Com'era questa canzone? Sei soddisfatto di averla scelta oppure... Sono soddisfatto, ho pagato pegno sulla musica classica perché questa la ritengo musica classica. Ah, ok, ok. Classic rock. No, è una canzone fantastica questa. Classic, ormai si definisce anche classic rock, potrebbe essere... Sì, se non vado errando, visto che parliamo poi di telefilm e sitcom, utilizzata forse nella prima puntata della seconda stagione di Lost, mi pare. L'avessero utilizzata. Bah, se vuoi facciamo fact checking come i cretini con lo smartphone, oppure no, e lasciamo. Sono abbastanza sicuro. Lasciamo a chi ci ascolta. No, è giusto, sicuramente. Noi decidiamo che è giusto. Quindi, d'accordo, sì, è giusto. È giusto. E, c'è un parallelismo, dicevamo, tra sitcom, che è la forma di telefilm più asciutta e soggetta a tempi comici precisi, sì, e la striscia che a sua volta è molto, sì, inquadrata nelle due, tre, quattro vignette. Sì. Allora, prendo una qualsiasi sitcom come esempio, una qualsiasi puntata di una qualsiasi sitcom, diciamo Big Bang Theory, no? Sì. Ad esempio, che è una delle, secondo me, delle migliori di questi ultimi anni, e ci si rende conto, anche chi si avvicina magari per la prima volta alle sitcom, che i tempi comici sono dati, sono molto regolari, sono le, sì, le risate servono un po' a misurare questa tempistica. L'origine dovrebbe essere perché erano show dal vivo, quindi sono, la maggior parte sono ancora girate dal vivo, okay, quindi le risate di per sé, le risate registrate di per sé sarebbero le risate, sì, del pubblico, esatto, che poi vengono, però penso poi sicuramente sono messe in post produzione, sì, sì, dosate, sì, sì. C'era in, penso per questioni di regia, di sentirsi l'audio, eccetera. Sì, però... sì, sì. C'era forse nel film Io e Annie. Vabbè, continuava a divagare, ma una cosa veloce. Okay. Appunto, che l'amico di Woody Allen, che, o forse Woody Allen, che andava a visitare degli studi televisivi e si stupiva del fatto che queste risate venissero messe. Lui era un intellettuale tutto d'un pezzo. Che in questi programmi in post-produzione venissero messe le risate e che il regista dicesse al tecnico: dicesse, ecco qua, falla un po' più forte, qua diminuiscila un po', qua fai ridere un po' più, lui questa cosa qua lo sconvolgeva molto. Ok, ci fossero delle scelte di regia anche nell'utilizzo delle risate, che sono un po' il simbolo di una certa pacchieneria televisiva, le risate, sì, registrate. Sì, infatti devo dire che non tutti apprezzano questa cosa qua, in alcuni telefilm... Cioè, sono un simbolo, adesso... in realtà sono solo un elemento, sì, tecnico. Anche. Tra l'altro ci fece anche una striscia di 35 metri quadri, su questa, okay, cosa qua delle risate... registrate, ma non te la dirò adesso perché, okay, potrebbe essere... Vabbè, comunque 35 metri quadri si può trovare sì, su, no, Amazon... Sì, sì. Sì, su Amazon, su Fumetto Online... Vabbè, poi torniamo, no, a parlare della realtà... raccolta di queste tue strisce. Sì. Comunque, no, in realtà non lo dicevo perché adesso nel contesto poi fa ridere, però magari qualcuno potrebbe offendersi. No, no, perché uno si chiedeva, ma perché queste sitcom... hanno, la ragazza chiedeva al ragazzo, perché queste sitcom hanno le risate così ogni 10 secondi, e lui diceva perché così le donne capiscono quando è il momento di ridere. In realtà fuori contesto sembra una battuta molto cattiva e maschilista, in realtà chi legge la striscia poi sa che è tutt'altro questo, sì, ok perché siamo finiti a parlare? Ah, sì, hai rovinato una tua striscia bellissima, l'hai rovinata raccontandola. Che quindi... non vanno mai raccontate. Esatto, cioè, l'autore racconta non la sua striscia. Non vanno mai raccontate, sì. Tempora amores, qui. Naturalmente. Telefilm, sitcom di riferimento, che secondo te sono importanti per il linguaggio comico-umoristico di commedia? Beh, partendo dalle prime, ce ne sono state di molto belle, tipo i Jefferson di metà anni 70, fine anni 70... C'è Friends, un classico ancora oggi, che ha retto 10 stagioni in maniera eccellente. Big Bang Theory è un'ottima sitcom attuale. Ce ne sono alcune poi che si ricorderanno solo più gli appassionati, tipo Sanford and Son, siamo sempre sugli anni 70. I Robinson era anche un'ottima sitcom, forse un tantino moralista, eccessivamente didattica. Sì. Vabbè, c'era tutto un discorso di integrazione razziale che era importante. Sì, era, ma diciamo, io soprattutto facevo questa valutazione dal punto di vista familiare, era molto moralistica, era diciamo l'epoca reganiana, no? Quindi riscoperta di certi valori tradizionali, e insisteva molto su questo. Quindi forse da adolescente lo apprezzavo, rivista adesso da adulto la trovo un po' stucchevole in alcuni... C'è un altro, parlando di simboli che poi sono tecnici, serie TV che finiscono, serie TV ma anche a volte certi cartoni animati, che finiscono con la risata finale. Questo è un po' un... la risata, tutti i protagonisti che si fanno una risata tutti insieme. Che a un certo punto fuori contesto è agghiacciante. Sì. Beh, quando sono state fatte parodie di questo tipo di sitcom venivano risolte così, esatto. No? Con la risata finale. Sì, sì, è un elemento anche questo un po' discutibile. Ah, questo poi è siamo finiti. Prima era una psicologia, questa è metanarrazione, cioè riflessione sulla narrazione. Tutte le volte che un linguaggio, un elemento di linguaggio viene utilizzato in maniera parodica, poi è già una metanarrazione, è già qualcosa che viene smontato dall'interno e utilizzato per dire qualcos'altro. Adesso poi dobbiamo sbagliare i congiuntivi per un quarto d'ora, perché no, ma io infatti ti ascolto, faccio cenno di sì, tu annuisci, testa, tu annuisci, mi assecondi e accetti questi miei voli pindarici di pseudo divulgatore, vabbè, ognuno ha i suoi problemi. 35 metri quadri, invece, parlando di giustamente la tua ultima fatica pubblicata, è una raccolta di questa striscia che si chiama 35 metri quadri. Ok, ho ripetuto un concetto ovvio, però pazienza. 35 metri quadri, che cos'è? Che torna utile, 35 metri quadri, comma 22 edizioni di Stefano Frassetto, Idioti in condominio. Perché Idioti in condominio? Idioti in condominio è il sottotitolo che ha trovato l'editore, che l'ha buttata un po' lì dicendo, ma se... Io l'ho trovato splendido, perché in realtà è... Ma racconta di, diciamo, il plot, adesso dai faccio anch'io, il plot narrativo, esatto. Il punto di partenza non è originale assolutamente, al contrario, cioè sono due amici che vanno a convivere per varie ragioni, per dividersi le spese, perché uno è uno studente fuori corso, uno è un disoccupato cronico che ha lavorato un po' in televisione come caso umano, nel senso che lui andava anche travestendosi in varie TV verità, fingendosi... un personaggio che ha visto gli extraterrestri, uno che aveva incontrato Elvis Presley. Era nato qualche anno fa, questo, per la striscia non è recentissima, in cui questo tipo di TV verità andava veramente forte. Okay. Devo dire che adesso sta ancora un po' recuperando, soprattutto la domenica pomeriggio su vari canali televisivi. E tra l'altro nasce da una tua esperienza però giornalistica, sì, allora, esatto. L'osservazione, sì. Di quel tipo di TV verità. Sì, perché facendo critica televisiva per un settimanale per quasi 10 anni ho dovuto veramente assumere il peggio in dosaggi massicci, il peggio della televisione italiana. E alla fine volevi partecipare al Grande Fratello anche tu, oppure? Ho partecipato a più edizioni. A più edizioni. Ah, ok. Grande Fratello rientra tanto. In questa raccolta no. Allora, faccio una premessa. In questa raccolta ci sono circa 150 strisce. Le strisce in realtà finora sono un migliaio. Ho dovuto fare una selezione, quindi l'ho fatta per argomenti, non potendo andare in cronologico, mettendole tutte mille, perché in realtà la storia si evolve di questi due personaggi, subentrano personaggi secondari, terziari, chi più ne ha più ne metta. In realtà ho dovuto fare una selezione per cui, ahimè, forse la parte sul Grande Fratello è un po' trascurata, perché c'è anche tutta una parte sul Grande Fratello. Uno dei personaggi secondari è un ex concorrente del Grande Fratello. Oh. Che devo dire che quando esce sul giornale riscuote anche molto successo, perché è quello su cui tiro più mazzate, in pratica. E anche fa, poi diranno che sparare sulla Croce Rossa. Però... Ma perché rappresenta il personaggio che ha la notorietà ma non ha qualità? Ma innanzitutto, sì. Okay. Ecco, perfetto. Questo è già detto tu solo con una frase, tutto. È una trasmissione mi viene, poi per tutto il resto sarò un cretino, però ogni tanto è così, senza qualità. L'altra settimana ho addirittura predetto l'autore preferito di Giorgio Somacal, quindi questi sono superpoteri, il DJ assume dei superpoteri. Adesso il mio lo sai già, perché abbiamo parlato di Schulz, quindi comunque anche il secondo e il terzo sai già. Indovinerò qualcos'altro. Potremmo fare il quarto, va bene, comunque vediamo. E quindi appunto rientra il Grande Fratello, rientra spesso ed è un personaggio secondario che è amico di loro due, no? Che è entrato nella storia perché uno di loro due è stato marginalmente uno della televisione. Dicevi appunto del discorso della senza qualità, ma anche del discorso della transitorietà di questa fame, questa gloria che danno queste trasmissioni. C'è una biodegradabile. Biodegradabile, bravo, a scadenza. Due mesi, tre mesi, così come sei arrivato alle stelle, che sono poi stelle molto relative, torni alle stalle. Per cui su questo ho giocato tantissimo, cioè sulla notorietà che se ne va e se ne viene. Qualcosa di anche triste, cioè ha un dolce amaro, anche una tristezza intrinseca. Sì, sento che è una notorietà che trovo che non ha basi, non ha nessuna base, non provo nessuna pietà. Ah, ok, fantastico, fantastico. Perché dispiace di più magari di che ne so, di un artista vero, di un insomma che di un professionista serio che cade in disgrazia, allora sì. Ma sinceramente... Ok. Vabbè. Lancia la prossima canzone perché qui... Allora, la prossima, se non vado errando, sono in New Order, giusto? Ok, grazie Filippo in regia. Grazie mille Filippo. Che ci aiuta dietro la console. Io continuo a chiamarla console perché sono fermo all'8-bit. Alla cabina di regia, al computer. Quindi fai partire il grammofono con i 78 giri dei New Order. Che si chiama Loveless, che è la canzone più bella. E rieccoci in onda per l'ultimo quarto di Sono solo nuvolette. Il tempo scorre veloce, sembra sempre di avere un'ora di poter parlare chissà quanto, invece tic e tac, il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Poi con questa bella musica, un applauso veramente a chi l'ha scelta, perché... Ah, te le dici anche da solo? Vabbè, se la canta, uno se la canta e se la suona, va bene. Stefano Frassetto è qua con noi, è un piacere chiacchierare di... ad ampio raggio. Abbiamo parlato di Strisce, abbiamo parlato di fumetti e della sua accettazione dell'etichetta di fumettista, ma tu sei illustratore e in un certo senso anche cervello in fuga, perché sì. Lavori per un quotidiano che quotidiano. Si chiama Liberation. Sì, sta su a Parigi e da circa 10 anni faccio ritratti. Ecco, quindi passiamo all'etichetta illustratore. Da circa 10 anni faccio ritratti per le pagine culturali, quindi ritratti non scritti, ritratti disegnati. Vabbè, certo. E niente, un'attività che ho iniziato già tempo prima per giornali locali. Poi ho avuto questa opportunità nel 2005, dai, andiamo a casaccio, mi sembra, intorno al 2005, attraverso uno studio grafico che stava a Parigi, con cui avevo collaborato per un periodico, qua invece si torna addirittura anni 90, e dovendo fare poi la ristrutturazione grafica del quotidiano, appunto, Liberation, loro gli avevano proposto questi ritratti, gli sono piaciuti, e da allora, quando c'è bisogno, ovviamente è un tipo di lavoro diverso, perché la striscia quotidiana la produco tutti i giorni, quindi è un lavoro quasi da ufficio. E tra l'altro, sempre parlando di estero, invece la striscia quotidiana 35 metri quadri esce... Esce un quotidiano della Svizzera, okay. Esatto. Quindi sei al confine tra vari... Sono al confine con le Alpi, transalpino da una parte e dall'altra. Questo ovviamente perché in Italia la striscia non viene pubblicata su quotidiani, per cui non è quasi mai stata pubblicata, se non qualche parentesi, credo negli anni 60 e 70, ma non, non è mai stata. Non c'è mai stata questa cultura. Adesso purtroppo, da ciò che si legge, anche negli Stati Uniti, che è la patria, no, della striscia quotidiana a fumetti, i giornali, che stanno tagliando molto, tagliano anche su questo tipo di... Di comunicazione, chiamiamolo così, questo tipo di arte, no, vorrebbe da dire. Tagliano... Beh, da noi c'è un po' di tradizione di vignette, un pochino, non tanto strisce. Sì, le vignette satiriche, principalmente satiriche. Le vignette satiriche sicuramente di più, anche loro in calo comunque, no, direi, rispetto a... Non fosse anche come popolarità, perché se ripensiamo alla popolarità che aveva Forattini negli anni Ottanta, era una cosa impressionante, o la popolarità di inserti come Tango, come Cuore, che vivono soprattutto di... vignette, sì. Per cui per Liberation faccio questo tipo di lavoro che faccio anche per la stampa di Torino, anche se ultimamente in maniera più saltuaria, sia per Tutto Libri con ritratti di scrittori, sia per le pagine culturali interne, e sempre saltuariamente anche per altri quotidiani, Sole 24 Ore. Tra l'altro, se non lo sapete, ma magari date un'occhiata su frassetto.net, che è il portfolio online di Stefano, se potreste riconoscere lo stile di quelle illustrazioni avendole viste sulla stampa su Tutto Libri. Ci sono tantissimi anche sul tuo portfolio, sul tuo sito portfolio, di questi ritratti di scrittori. Sì, sì, ne ho messi parecchi. È una questione di scegliere i tratti salienti, perché è un'illustrazione ma sintetica. Sì. Caricaturale. Non è caricaturale. E tecnicamente, per capirci, io faccio un bozzetto su carta con la matita, in base alle foto che ho, anche perché per esempio in Francia si parla spesso di personaggi di cui non ho proprio idea di chi si parli. Vivendo qua in Italia magari mi dicono c'è da fare un ritratto di XY, è come se io dovessi sapere, mai sentito nominare, mi dico ma com'è il famoso filosofo della Sorbona? Beh, tu annuisci, dici sì. Sì, mi verrebbe da rispondere alla romana, dicendo puntini. Per cui mi studio bene queste foto, mi prendo il mio foglio bianco, faccio a matita un ritratto cercando di renderlo molto geometrico, con tratti molto essenziali, con più forme geometriche possibili. Faccio poi una scansione e poi al computer disegno vettoriale con Illustrator. Mi piacerebbe dire con Illustrator, che è uno strumento molto serio che usano tutti i disegnatori. E in realtà io uso Flash, che è un altro programma, okay, per cui vengo molto biasimato, quasi come per la musica anni 80. Ah, ok. E vabbè, ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. E dunque niente, poi coloro sempre al computer. Quindi i ritratti poi sono già in digitale, per cui diventa facile mandarli ai giornali. Quindi comunque c'è un discorso di sintesi, in questo caso riduzione alle forme primarie. Sì, che poi insomma il ritratto di una persona ovviamente si può eseguire in tanti modi, si può fare iperrealistico, quindi disegnandolo con più tratti possibili, quindi rendendolo più realistico possibile grazie a sfumature, ombre, sì, eccetera eccetera. Si può rendere più essenziale possibile con il minor numero di tratti possibili, tenendo conto che in un ritratto ciò che conta di più in assoluto sono gli occhi. Sì. Come si può imparare anche facendo gli identikit alla polizia. Gli occhi sono fondamentali, non per nulla, per non far riconoscere qualcuno. Quando sono pubblicate le foto tipo dei minori sul giornale viene messa una banda nera sugli occhi. Quindi gli occhi sono fondamentali, poi venendo subito dopo la bocca, forma del cranio, eccetera eccetera. E tu parti nella scelta, nel disegnare, parti appunto dagli occhi? Sì, sì, sì, parto sempre dagli occhi. Perché sbagliato quello è sbagliato tutto. Ah, ok. Non è quello assolutamente la parte... sì, ci sarebbe anche da parlarne filosoficamente, no? Del fatto che gli occhi siano veramente ciò che caratterizza una persona, ma la scelta è quella. Che poi di per sé dovrebbero essere una forma molto semplice e non molto variabile, invece poi ci sono tanti elementi. È di una complessità impressionante, impressionante. Sì, sì, il taglio degli occhi è... ce ne sono veramente combinazioni infinite. Non sembra, ma leggendo anche trattati di disegno anatomico, eccetera, eccetera, si potrà notare com'è. Sì. Poi basta veramente una leggerissima variazione, leggerissima, e salta tutto. Cioè non veramente la difficoltà, tu utilizzi uno stile personale, però a partenza deve essere riconoscibile. Sì, sì. Quindi sì, è un sì, equilibrio. Sì, sì, ma diciamo, usando linee molto geometriche, devo dire che uno prende questa strada, per cui dovrà semplificare qualcosa, magari dovrà qualche curva renderla un po' più retta o qualche tratto renderlo un po' più dritto, però insomma la strada è quella. Sì. Ok, e comunque se volesse dare un'occhiata alle illustrazioni di Stefano Frassetto... Andate in Francia a comprare Liberation, ma non ve lo consiglio apposta, se capite. Se siete in Francia, sì, è il vantaggio di Radio Archimede, che si può ascoltare da tutto il mondo, essendo una web radio, quindi anzi, se siamo fortunati, ho almeno un paio di ascoltatori in Francia che in genere ascoltano. Beh, allora possono andare comunque sul sito di Liberation, sulla home page, scendendo verso il basso, qualche ritratto si trova tutti i giorni. Ok, ok. E qualche altra coordinata? Corriamo verso la fine del programma, quindi tanto per dare qualche tua coordinata. Il libro 35 metri quadri, che è la raccolta delle strisce apparse su questo... 20 minuti. Sì. Ok, su 20 minuti, che è questo periodico svizzero, sì, del Canton Ticino, quindi in italiano. Allora, è un quotidiano in realtà nazionale, non solo, ma che copre anche parte della Francia orientale e della Germania del Sud. Però nella Svizzera ha l'edizione italiana, tedesca e francese. Ok. Quindi... 35 metri quadri si può trovare potenzialmente in fumetteria, libreria, edito da Comma 22? Sì, online secondo anche me. Online. Anche online. tranquillamente, su anche su store. Amazon o su Fumetto Online. Ok, ok, ah, perfetto. E c'è una pagina di Facebook anche di 35 metri quadri? Sì, c'è una pagina proprio per il fatto che, essendo pubblicato all'estero, molta gente, molti amici, anche in Italia, non possono leggerlo, per cui appunto riposto una striscia o due alla settimana, non tutti i giorni, se no diventerebbe un lavoro. Ok. Cioè diventerebbe un lavoro solo postarle, benché okay. le strisce siano fatte. Okay. Per cui la pagina si chiama proprio 35 metri quadri, okay. 35MQ. Ho condiviso sulla pagina di Facebook di Sono Nuvolette ieri una striscia, una gag sulla cultura, ho detto avremmo parlato di cultura a modo nostro, e in effetti abbiamo parlato di psicologia, metanarrazione, musica, fumetti, musica, sì. Ma cose. Sì, fumetti, meno male che se ne parla, perché diciamo che fumetti comprendono tutto poi, esatto, no, il discorso interessante che sta emergendo è che nel fumetto c'è tantissimo, nel fumetto, nella cultura pop c'è veramente tanto, e quindi grazie Stefano Frassetto per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie agli ascoltatori. L'appuntamento è al Salone Internazionale del Libro. Radio Archimede sarà al Salone Internazionale del Libro con un po' di diretta continuativa. Adesso non so darvi orari precisi, ma da giovedì tenete d'occhio il sito, la pagina Facebook, eccetera. Stefano, ti lascio lanciare l'ultima canzone e poi vi do appuntamento al Salone. Allora, abbiamo Sting con Englishman in New York. Capolavoro. Wow, questo apprezzo. Finora era un po' così, ma questo apprezzo. Sul traguardo. Va bene.